voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Sono sci? Esatto. Bene. E sono suoi? Uh-huh. Tutti e due? Già. Forte. Quando è uscito dal marzo scorso, ad oggi è quasi costantemente presente tutte le settimane all'interno delle playlist di Eclettica e, dato il totale di 13 canzoni contenute nell'album, sono 6 quelle che stanno ruotando da allora. Direi che, pur con tutta la soggettività del caso, è un'indicazione abbastanza forte sul livello qualitativo del nuovo degli E-Toys Orchestra per Urtovox, album dal titolo Technicolor Dreams. Cornis Dance è il pezzo che vi siete ascoltati all'inizio di questa seconda parte del volume numero 3 di Eclettica, per lasciare invece ora lo spazio ad un quartetto tutto al femminile svedese. Loro si chiamano Audrey, l'album è Visible Forms e il brano Mecklenburg. Thank you. Qualche tempo dopo la mia seconda separazione decisi di cercarmi una casetta con giardino in città. Un obiettivo difficile, ma ci riuscii. Era qualcosa di più che un capriccio. Troppi anni passati in appartamenti con mobili funzionali e un gran congelatore. Ora si presentava l'occasione di abitare da sola, in un posto tranquillo, e volevo che fosse un'opportunità per cambiare. La casa era a Poblenou, un quartiere non troppo lontano dal centro. Tutto intorno c'erano case vecchie e cadenti come quella che avevo comperato, fiaccheggiate da capannoni industriali, imprese di trasporti e rimesse degli autobus. Questo era l'incipit di Riti di morte di Alicia Jiménez Bartlett. All the way from Pettenweem to the rock and roll dream, all the way from East Newark Faith to the R&B life. Did you dream of lochs and highlands? Devo allontanarmi dal mio ragazzo, è un tale imbranato. In più il mio astrologo mi ha detto di stare alla larga dai tipi che combinano incidenti, perciò so. Oh, beh, ecco io. No! And you open up your eyes, you're underneath the third class seat. Your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. Holy dancing in my soul, but tears on my cheeks. And life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. And life is tragic and small, 'cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love. ad essere onesti, non saprei che cosa dire. Non sei molto diverso, l'aspetto non può mentire. Forse hai perso la testa, ma se hai perso la testa, non hai perso niente. Può passare un giorno in vacanza per sentirsi di morire. Se ti perdi la testa, ti perdi la testa e non perdi niente. La prima regola è se ti senti stronzo lo sei. Seconda regola, evita il mistico. Ci sarà un momento per rincorrere le religioni e lo supererai. La terza il rischio delle sintesi è quello di poter essere magari molto brutali, però penso di non allontanarmi di molto dalla verità se definisco i Carpaccio, che ci siamo appena ascoltati con Regole per un cervello difettoso, come la somma di melodia e ironia. Ora invece vi lascio con le Coco Rosie, le due sorelle Cassidy, da The Adventures of Ghost Horse and Steelborn. Il primo singolo estratto è Rainbow Warriors. Spirit. mother, loving father, and our teacher. He's gone forever. He has moved a little nearer to the master of all laughter, to the master of all song. Oh my brother, crystal brother of two spirits. Then we gathered in a circle, stood round the rainbow fire, burning embers, hearts united. We remember mystical beauty. If you look hard, you can find a rainbow trail that's deep inside ya. Fear not, you're a rainbow warrior, golden light on everything beamy. La prima accoglienza fu uno schiaffo di calore, umido, adesivo. La seconda non ci fu affatto. Nessuno era venuto ad aspettarmi all'aeroporto di El Prat. Nessuno era stato avvisato del mio arrivo. Questo può bastare per spiegare il deserto umano che mi trovai di fronte. Eppure, contro ogni logica, rimane sempre la speranza che all'arrivo una piccola delegazione agiti un cartello con il tuo nome e si lanci ad abbracciarti in segno di amicizia. Sciocchezze, pensai. Queste sono cose che non succedono mai, tantomeno a una come me, che ha fatto di se stessa il feroce guardiano della propria tranquillità. Questo era l'incipit dei Serpenti nel Paradiso, di Alicia Jiménez Bartlett. I'm alive, I can't resist you. I can't. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 32, volume numero 3. Indice. Jennifer Ever, Fujie e Miyagi, The Ladybug Transistor, Tina Riwen, Urla Auwin Polen, Windmill, A Toys Orchestra, Audrey, Aidan Moffat con i Best Offs e Ian Rankin, Larrikin Love, Carpaccio, Cocorosi, Client, remixate da Busta.